La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buongiorno carissimi ascoltatori di Radio 24, buon pomeriggio da Oscar Giannino. Giorno di lutto nazionale dopo l'immane tragedia di ieri. Per fortuna oggi ho trovato un grande giornale tedesco che per la prima volta attacca l'Europa e non l'Italia per quello che è successo ieri. Si chiama Der Spiegel, andate sulla versione inglese, vale la pena di capire che forse qualcuno apre gli occhi anche fuori dal nostro paese su quello che l'Europa dice e non fa. E in questa giornata noi vi poniamo una domanda. Io avrei voluto avere più tempo oggi in particolare, perché la domanda che faccio a tutti voi in ascolto è invitandovi a telefonare, perché in questi pochi minuti noi affrontiamo un tema, per così dire, riflessivamente, cioè il bilancio di questi 20 anni, quelli che vanno all'epilogo con la storia di Silvio Berlusconi in questi giorni, di 20 anni di politica, di banche, di finanza. Questi 20 anni, non è forse vero che dobbiamo porci una domanda tagliente? E trago spunto da un libro del cui autore, col cui autore parleremo oggi. Perché questo libro, che è un libro abrasivo, che vi invito a leggere perché vi farà girare molto ad alcuni di voi le scatole e ad altri piacerà, mi auguro, tantissimo, pone esattamente questo quesito. Quindi iniziate a telefonare all'800 24 00 24. Ma non è che questi 20 anni alle spalle, Berlusconi, Forza Italia, la Lega, i tipi di governi che abbiamo avuto, destra, sinistra, centro, ma però con il Nord che voleva rivoltare l'Italia come un calzino, dargli l'efficienza, liberarci della inefficienza e della commistione di troppa politica e criminalità del Sud, e poi le banche, le grandi banche del Nord, e le grandi imprese del Nord che fanno cose tipo Telecom, come i capitani coraggiosi di Alitalia, i Riva. Ma questi 20 anni, non è che ci dobbiamo porre il problema che sono stati la disfatta del Nord? Ecco, questo è l'interrogativo, e ne parlo con l'autore di un libro che così si intitola, di Longanese Editore, un collega, un giornalista che scrive Al Mondo, settimanale economico di RCS, che è uno che non le manda a dire, perché nei libri che ha scritto in questi ultimi anni ne ha fatto prima uno sui figli dei padroni, Affari di famiglia, poi ha fatto uno sul partito dei padroni, su Confindustria, in cui tagliava abbastanza a fette con critiche giuste e spietate. Confindustria, e adesso è uscito con un nuovo libro, la cui tesi è, ragazzi, guardiamoci negli occhi, questo Nord che voleva dare classi dirigenti ha inflitto, ohimè, affari, pessimi affari, alla finanza, alla politica, decine di processi, politici e banchieri, la Banca Popolare di Milano, e insomma Zaleschi, e chi più ne ha più ne Fabbrica Italia, ecco. Lo fa in maniera tagliente. Io talvolta non sono d'accordo con lui, ma lo ringrazio perché ci pone questo quesito, ed è con noi qui Filippo Astone, colleghi della redazione, perché questo annuncio, come vedete, va esattamente al centro della domanda che si ci sta ponendo. Filippo, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi e grazie soprattutto a te per queste parole. Grazie a te che hai scritto. Allora, inizia a dire, perché secondo te il Nord è andato in disfatta in questi 20 anni? Perché è proprio così? È andato in disfatta sia il Nord e sia il paese intero, per colpa dell'inadeguatezza delle sue classi dirigenti. Vedi, vorrei sfatare un equivoco, io non me la prendo con il Nord nel libro, perché il Nord è quello che traina l'Italia ed è quello che col suo residuo fiscale mantiene le altre regioni, è il Nord di tante imprese virtuose che si battono senza reti di protezioni, senza appoggi del credito, investendo i loro soldi, innovando, andando sui mercati internazionali, creando occupazione. Ecco, il problema è la classe dirigente che si può riassumere nel trio Berlusconi, Bossi, Formigoni. E qui i numeri, che non li do io, li danno altri, che adesso ti dico, parlano chiaro. Ora, secondo calcoli svolti da Eurostat, nel 1994, quando il duo Berlusconi-Bossi ha preso in mano il governo italiano per la prima volta, fatto 100 il reddito pro capite medio UE, quello italiano era 121. Nel 2010, fatto 100 il reddito pro capite medio UE, quello italiano era quota 104. Nello stesso decennio il debito pubblico è passato da 1.134 miliardi di euro a 1.134 miliardi di euro del 2001 a 1.900 miliardi del 2011, per arrivare a 2.000 miliardi nel 2012. Nell'ultimo decennio, indipendentemente dall'indicatore utilizzato, prodotto interno lordo, PIL pro capite, produttività del lavoro, total factor productivity, ci collochiamo agli ultimi posti nei ranking mondiali E così negli anni 2000 il tasso di risparmio delle famiglie si è abbassato del 5% e quello di indebitamento è aumentato del 30%. Allora, io ti fermo un secondo perché questi sono numeri che i nostri ascoltatori sentono sistematicamente tutti i giorni. Ti torno a chiedere, le classi dirigenti del Nord, in particolare, diamo un'idea a chi deve leggerlo questo libro, quanti casi Ligresti, quanti casi Popolare di Milano, quante decine e decine di processi che vedono insieme le classi dirigenti politiche, quelle che hai citato, ma anche signori delle imprese e delle banche del Nord, danno sostanza a questa tua accusa contro le classi dirigenti del Nord? Ma tantissimi, però vedi, io non faccio un j'accuse giudiziario. Io personalmente poi sono un liberale, un garantista e non manderei in galera nessuno. Il problema è che questi processi sono lo specchio della decadenza economica. La corruzione non è solo un problema in sé, ma svela anche perché l'economia del paese è stata mandata a catafascio. Perché se tu ti leggi gli atti di questi processi, ti vedi dei comportamenti che hanno prodotto la decadenza attuale. Per esempio nel caso Popolare di Milano, emerge con chiarezza che nonostante fosse una popolare, quindi finalizzata al risparmio popolare e al finanziamento delle piccole e medie imprese, i prestiti andavano agli amici degli amici. I prestiti andavano alle grandi imprese e alle piccole imprese venivano negati. Poi soprattutto Ponzellini, che era anche presidente di Impregilo, finanziava Ligresti, che gli dava lavoro in quanto Impregilo, e finanziava Caltagirone, che non è esattamente la mission della Popolare di Milano. La piccola impresa lombarda. Perché... la piccola impresa lombarda aveva enormi difficoltà nell'ambito di questo capitalismo relazionale organizzato in questo modo. Non solo, nella Popolare di Milano di quegli anni i risparmiatori sono stati tosati perché sono stati indotti a comprare un prestito convertendo molto svantaggioso nei loro riguardi, che ha fatto sì che molti risparmiatori che hanno dato fiducia hanno visto i loro risparmi azzerarsi. C'è anche un tema di risparmio tradito. Di risparmio tradito, di informazione asimmetrica finanziaria. Allora, quando riprendiamo, perché adesso andiamo alle informazioni sulle strade, ti prego di ripartire da la delusione, per così dire, il bilancio molto deludente che tu fai rispetto alla forza che prima di 20 anni fa aveva acceso tutto questo, la Lega, che voleva dare gambe alla grande ripulitura dell'Italia con lo spirito del Nord. In questo 4 di ottobre San Francesco con il Papa d'Assisi a tentare di riportarci all'essenza più intima, non solo della spiritualità ma di quello che conta davvero poi nella vita di ogni giorno, stiamo parlando della disfatta del Nord. Longanese editore, Filippo Astone, collega giornalista, l'autore, è qui con noi. Allora, sulla Lega tu affondi molto duramente il coltello, cioè la tua tesi non è c'era una Lega buona all'inizio e poi qualche mela marcia ha purtroppo corrotto il significato politico della prima ispirazione della Lega. Tu dai un'altra lettura, se non sbaglio. Per quanto riguarda il problema del finanziamento c'è sempre stato, non esiste un prima e un dopo. Non dimentichiamoci che per l'affare Enimont Umberto Bossi è stato condannato in via definitiva. Nel libro c'è anche un'intervista ad Alessandro Patelli, quello che viene ricordato come il Pirla, il primo tesoriere della storico. Lega, che dice che fin dagli albori, fino dalla fine degli anni Ottanta, un problema di finanziamenti irregolari, occulti o perlomeno disinvolti c'era ed è continuato con regolarità negli anni, quindi non c'è stato un prima e un dopo. Ma vedi, al di là di queste questioni morali, io non sono un giustizialista tra virgolette, ti ripeto, non manderei in galera nessuno, i fallimenti più gravi sono il fallimento politico e il fallimento gestionale della Lega. In 20 anni di vita parlamentare, 10 anni di governo da una posizione di forza, a un certo punto esprimeva anche il ministro dell'economia, la Lega non ha portato a casa neanche uno degli obiettivi che rappresentano il suo ragione d'essere. Esatto. Nel federalismo in qualche forma, riduzione delle imprese. Io per questo sono molto d'accordo con te. Guardiamo tutte le volte che la Lega e Berlusconi hanno avuto i voti per fare delle cose, non se ne è visto nulla. Io le elencherei, federalismo no. Riduzione delle imposte? No, anzi, sono perfino aumentate. Altro che. Provvedimenti a favore delle piccole imprese e delle partite IVA? No. No. Migliore accesso al credito? No. No. Semplificazione burocratica? No. No. Praticamente non è stato portato a casa niente, pur avendo tutte le leve del potere in mano. Poi, in molti casi, si è fatto esattamente il contrario di quanto si è promesso. Per esempio, si è promessa l'agevolazione al commercio, al dettaglio, al piccolo commercio, e poi in Piemonte e in Lombardia in quegli anni c'è stato un tasso di costruzione di ipermercati e supermercati che è al record europeo. Si è promessa la tutela del territorio, ma c'è stato in Lombardia, in Veneto in quegli anni un record di consumo di suolo. Addirittura l'assessore della regione Lombardia, che ha concesso maggiore licenza per la costruzione di ipermercati che andavano contro il suo elettorato, era il leghista Davide Boni. Senti un secondo, perché il nostro pubblico qui ci pone delle domande, perché naturalmente poi noi stiamo colpendo al cuore e alle orecchie una bella parte di nostri ascoltatori che poi hanno votato il centrodestra per tanti anni. Allora la domanda che ti faccio è: a San Giovanni, qui fuori Milano, per tanti anni, vedremo anche lì come l'inchiesta, ma non ci occupiamo del processo, dico come fenomeno politico, c'era una cosa a propria volta un po' in linea con questo atteggiamento di classi dirigenti, lontane da quello che bisogna fare e disinvolte invece nella prassi coi soldi, cioè il sistema Penati, che era pur sempre il capo della segreteria politica del segretario del PD Bersani. Secondo te quella è un'eccezione rispetto alla sinistra? Anche la sinistra ha commesso questi errori come classe politica che vediamo chiari nel bilancio del centrodestra nord o no? Sicuramente anche la sinistra ha commesso questi errori, però vedi, io per quanto riguarda l'area Falck non mi scandalizzo tanto per le mazzette, quelle vabbè, pazienza, insomma, in un certo modo. Ma mi scandalizzo perché perché non c'è più l'area industriale, non ci sono più le fabbriche, il tasso di manifatturiero in 5 anni è sceso dal 21 al 16%, e nessuno di questi ha saputo proporre qualcosa di alternativo alla Falck. Non sono stati fatti provvedimenti di politica industriale per sostituire quelle fabbriche che morivano. Non è stato saputo proporre nulla. Noi siamo il paese, diciamo, secondo vocazione manifatturiera, ma quello con il più alto tasso di deindustrializzazione in corso nella crisi, il rapporto della settimana scorsa. Allora, la Lega al potere, il PDL al potere, ma anche il PD è ugualmente colpevole. Esatto. Ti ripeto, tra l'altro c'è un ottimo libro che sta scrivendo mio amico e collega Ferruccio Pinotti, che si intitola Rossi, che uscirà e che parla proprio di questo. Ve lo consiglio quando uscirà. Io non parlo del PD nel libro, perché il libro si rivolge e è riferito al nord, ma il PD è ugualmente colpevole. Non hanno saputo elaborare e proporre niente, e questa è la colpa più grave, ed è molto più grave delle mazzette. Sì, questo sono d'accordo anch'io, delle mazzette. Perché quei numeri che ho letto si collegano a questa mancanza di proposte, a questa mancanza di un'incapacità politica che fa danni ancora più profondi sull'economia e il tessuto della vita di un paese, di quanto invece non si possa fare curando poi coi processi chi viola la legge. Rapidissimi alcuni dei nostri ascoltatori a cui ti prego di rispondere. Innanzitutto Andrea, che ci chiama da Livorno. Breve Andrea e secco. Buonasera, volevo dire che più che la sconfitta del Nord è stata la vittoria del sistema burocrazia in Italia, che è radicato nel profondo Sud e nel sistema di voto di scambio venuto dal Sud. Quindi tu dici che è il Sud che ha in qualche maniera coinvolto e contagiato queste classi dirigenti del Nord. Poi Luca, che chiama dalla provincia di Sondrio. Prego Luca. La mia idea è che attraverso l'utilizzo dei media, perché questi che hanno governato sono stati rieletti dal popolo, no? Come no? Attraverso l'utilizzo dei media hanno offuscato la ragione del popolo, l'hanno reso ignorante e mantenuto ignorante. Questa è un po' la tesi dell'ultimo, tu dici un po' come la tesi dell'ultimo libro di Popper, secondo me un po' sopravvalutata, per cui coi media poi alla fine la gente non capisce più niente. Non lo so, che dici Filippo Stone? Sicuramente i media non hanno aiutato e non aiutano, noi facciamo un immenso dibattito sul nulla, parliamo dei fatti personali di Berlusconi, parliamo dei pettegolezzi, parliamo del gossip e non parliamo di come è ridotto questo paese, delle pensioni, delle tasse, dell'eccesso di burocrazia. Noi in questo momento abbiamo il 34% di disoccupati e cassi integrati, senza contare i contratti precari. Questo è un paese che offre a un neolaureato un cocopro dell'ammontare medio di 400 euro, esattamente. Ma vogliamo parlare di queste cose oppure vogliamo ancora parlare della chirurgia plastica della Sant'Anché? Allora Filippo, su questo lasciami dire, qui parlo io, la mia opinione è che molti dei miei colleghi, anche la stampa economica e finanziaria, in questi anni, senza senza che ci fosse un padrone che ti telefona prima e ti impedisce di farlo, forse casi come il Gresti, forse casi come ciò che avveniva nell'universo Mediobanca, casi come Banca Popolare di Milano, casi come Zaleschi, ecco, su quelli ciascuno di coloro che non hanno parlato e fanno il nostro mestiere e poi lo scoprono quando tutto è caduto, o di quello che avveniva anche in Telecom, dove erano Mediobanca, Generali, Intesa, eccetera, eccetera, e solo alla fine, quando Bernabé se ne va e arrivano gli spagnoli, tutti insorgono, bene, io in questo credo che non facciamo bene, parlo per me, non facciamo abbastanza il nostro mestiere, non sto accusando nessuno, ma su questo c'è un punto su cui la stampa, sull'economia, la finanza, l'intreccio vero tra politica, grandi imprese e grandi banche, lontano anni luce dai comportamenti di centinaia di migliaia di piccoli imprenditori italiani, su questo secondo me c'è molto da mettersi la cenere in capo. Tu che dici? Sì, ma devo dirti con un pizzico di orgoglio che il caso di Gresti, io l'ho raccontato nel libro Gli affari di famiglia, uscito nel 2009, e sembrava che io avessi una versione personale nei loro confronti, cosa che non c'era. Però devo anche dirti che non è solo censura o autocensura che risponde a un'utilità immediata. Penso che ci sia anche un problema di conformismo culturale. Esatto. Speriamo che questo conformismo culturale, con le vicende anche di cui avete sentito oggi con la breaking news, il voto della Giunta del Senato, in qualche maniera cada. Intanto il mio tempo è finito, io ringrazio Filippo Stone, vi invito tutti a scrivere all'indirizzo la versione di Oscar @radio24.it, perché io vi rispondo. Appuntamento a lunedì e continuate su Radio 24.